Stepan aveva talmente fretta di tornare a casa che non aspettò Elia sul marciapiede della stazione Strasbourg-Saint-Denis come faceva di solito. Scendendo lungo la Rue de la Mare, provò un gran sollievo nel vederlo da lontano su una delle sedie che l'Alverniat metteva fuori quando faceva bello e il caffè era affollato. Non rientrava nelle abitudini di Stepan e di Elia fermarsi la sera al caffè, tornavano sempre direttamente a casa. Preferivano casomai il bicchierino di vodka polacca versato da Sonia o da Olga nell'una o nell'altra cucina, al vinello bianco di paese e alla mer picon che l'Alverniat serviva ai suoi clienti, ai quali non si erano mai veramente abituati. Però lo assaporavano volentieri tutte le domeniche mattina, ritualmente, tornando dai bagni docce della Rue des Pyrénées. Gli piaceva la mer picon la domenica, perché il suo sapore si associava all'insolito silenzio della strada e all'odore fresco della loro pelle vigorosamente strofinata dopo i bagni. Non rientrava neanche nelle abitudini del signor Stern ciondolare al caffè, né in quelle di Benedetti padre lasciare la Rue des Pyrénées. Eppure Stepan riconobbe proprio loro seduti su due sedie in compagnia di Elia che faceva cenno di andare a raggiungerli. Intorno a loro, in piedi per la strada e davanti al banco del caffè con la porta spalancata, Nussbaum, Katz, Goldberg, il vecchio Löwenthal, Novak e dei tizi che non aveva mai visto nel quartiere ascoltavano in silenzio Benedetti che parlava a mezza voce. Avvicinandosi, Stepan poté contemplare il quadro vivente composto da quella riunione di paesani e lo trovò quanto mai tranquillo rispetto all'agitazione caotica e chiassosa che si era dovuto sorbire per tutta la giornata in Rue d'Aboukir, prima e dopo la terribile scenata con Yannick. Era stanco, stanco delle grida degli altri, stanco di aver gridato, era svuotato e accettò volentieri la mezza sedia che gli offriva Elia e la mer picon che gli tendeva l'Alverniat. Ascoltò l'italiano. Questi raccontava che in America c'erano due tizi che si trovavano in prigione da 6 anni, condannati alla sedia elettrica, due italiani, e tutti gli italiani del mondo si mettevano insieme, salvo Mussolini naturalmente, ma in tutto il mondo faceva un bel po' di gente, per impedire che venissero ammazzati. Sicché bisognava che tutti gli ebrei del mondo si mettessero insieme per proteggere quello Schwarzbard e impedire che i francesi lo ghigliottinassero. Il signor Stern, che conosceva benissimo la storia dei due italiani d'America, gli rispose che erano due cose completamente diverse. Gli italiani d'America erano stati condannati senza prove. Schwarzbard aveva ucciso. Aveva ucciso un mostro, ma aveva ucciso. Non c'era bisogno di prove. Le aveva fornite lui. Aveva ammazzato e non doveva renderne conto neanche alla giustizia francese, ma a Dio. Il signor Stern non parlava più forte di Benedetti, aveva un sorriso molto triste per condannare, ma la sua condanna era irrevocabile. Ne aveva attinto la certezza dal Rabbi Blau, con il quale aveva passato il pomeriggio come ogni giorno, poiché lo aiutava a decifrare dei testi sacri che avevano avuto da un emissario di una tribù abissina. E poiché chiudeva gli occhi per dare maggiore solennità alla sua condanna, non poteva vedere la collera, il dolore, l'indignazione che le sue parole ortodosse facevano salire al viso di quelli che lo stavano a sentire. «Lei è anche peggio di quel farabutto di mio fratello», disse Stepan in Yiddish ad alta voce, e senza fornire altra spiegazione, volse la testa verso l'interno del caffè. Solo in quel momento scoprì Maurice che stava ad ascoltare rannicchiato contro il banco con un bicchiere di gazzosa in mano. «Mi stava aspettando all'uscita del metrò», disse Lia, come per scusare la presenza del suo figliuolo al banco. Dal fondo buio del caffè spuntavano come draghi appena risvegliati la figura titubante di Barsky seguito da Gromov. Il signor Stern, che non aveva bevuto niente, si era alzato salutando con la mano in un gesto di afflitta indulgenza comune a coloro che sanno di avere ragione contro tutti. Benedetti, che non aveva afferrato il senso della breve replica di Stepan, capì però che era di troppo, soprattutto nel momento in cui Barsky crollava sulla sedia lasciata libera dal signor Stern. Ringraziò quindi Elia per la consumazione e si alzò a sua volta. Stepan prese la sedia. Elia poteva leggere nello sguardo dell'amico che questi già rimpiangeva di aver evocato davanti a tutti quel fratello di cui non parlava mai ad altri che a lui e che nessuno della via conosceva. Gromov si sedette sullo scalino della soglia. Nussbaum e tutti gli altri si dispersero. Barsky non aveva praticamente lasciato il caffè per tutto il giorno. Non avevano voglia di sentirlo farneticare. «Dov'è Zazà?» chiese Stepan a Maurice, vedendo Novak che si allontanava. «Stanno giocando a mascherarsi con Josette e Miriam», rispose Maurice alzando le spalle. «Da Zarina, come sua zia?» ridacchiò Barsky, guardando Gromov, il quale si guardò le scarpe. Ci fu un momento di silenzio. «Lei è ubriaco, signor Barsky», disse Lia, che ora leggeva la stupefazione nello sguardo di Stepan. «Lei è ubriaco, perciò non parli di gente che non conosce». «Io sono ubriaco e va bene, ma Gromov no. Glielo chieda al principe Andrei Alexievich se la moglie di quel farabutto di suo fratello non si traveste da zarina o da granduchessa Pavlova. Vedrai se non si conoscono», riprese Barsky ridendo apertamente. Gromov ebbe lo stesso gesto di Zazà per suggerire che Barsky non sapeva più quel che dicesse. «Non mi prendere per un fesso, Gromov», disse Barsky, che aveva sorpreso il gesto. «Non oggi. Oggi si dice tutto. Diglielo tu a Roginski, che noi li conosciamo, lui, lei, il boa de Boulogne e perfino la camerierina con il suo copricapo di trina. Le sue scale col tappeto, i suoi capelli rossi, il suo profumo, il suo Das Vidania. E quanto ci hanno dato da 2 anni che li riforniamo. Lo sai che cosa ci chiede adesso? Delle icone. Sì, vecchio mio, delle icone che vadano bene col l'uovo meccanico che le abbiamo fatto pagare, quello che suo marito ti paga per 6 mesi di lavoro e non oso neanche dirti tutto perché non ne sono sicuro, ma il gran mantello di pelliccia, Gromov, mi chiedo se non l'hai trovato da Pietrura. Soffocava dal ridere. Ah no, questo no, esclamò Gromov che fino a quel momento non aveva parlato. Questo no, Isidor, non tu. Mi hanno già rotto abbastanza le tasche per tutto il giorno a chiedermi se Pietrura era mio cugino. È strano, non parlavamo mai di Schwarzbard, mai. No, Pietrura per tutto il giorno. L'ultimo, quando stava attaccando a dirmi lei lo doveva conoscere quell'atamano. Mi sono voltato e gli ho detto: «Sì, figuri, sono il fratello di Schwarzbard». Ha avuto paura e non ha più detto niente. «Non cambiare conversazione», fece Barsky, lanciando una strizzatina d'occhio che voleva essere complice a Stepan, il quale non lo ricambiò. Era pallido, serio e muto. «Torniamo a casa», disse Lia già in piedi. «Vieni, Maurice. Andiamo, Stepan». Guardandoli allontanarsi tutti e tre, con il bambino tra i due uomini, Barsky si chiese se avesse fatto bene a parlare. Gromov pensava di no. Tra casa e l'Alverniat c'erano un centinaio di metri. Maurice camminava tra il padre e Stepan, che si guardavano senza parlarsi né parlargli. Ancora qualche passo e sarebbe stato troppo tardi. Si disse che era proprio sfortunato. Quando aveva bruscamente deciso di lasciarsi gli altri sul terreno, di lasciare gli altri sul terreno abbandonato, per andare da solo ad aspettare suo padre alla stazione Pirenè, aveva uno scopo ben preciso: fare una domanda e ottenere una risposta, essere ascoltato e capito, ascoltare e capire. Se non aveva saputo cavar niente da sua madre, probabilmente era perché aveva preparato male la domanda, invece aveva preparato bene quella che avrebbe rivolto a suo padre. Ne ripeteva la versione definitiva spiando l'apparizione di Elia in cima alle scale del metrò, proprio nello stesso punto dove la mattina aveva letto la straordinaria notizia della morte di qualcuno di cui ora gli dovevano ben spiegare perché gli avessero detto che non esisteva, dopo avergli fatto credere che era la signora Löwenthal che invece non era morta. Da chi è Pietrura era passato a chi era Pietrura, per scegliere poi irrevocabilmente chi era il Pietrura che è morto. Questo almeno era chiaro. Suo padre gli sorrideva, con la testa alzata, sorpreso di scoprirlo in cima agli scalini, quando un ciao Gutmann era risuonato dietro Maurice e suo padre aveva finito per parlare con il signor Benedetti mentre si avviavano verso il caffè dell'Alverniat, e dall'Alverniat aveva sentito tutto. E se non aveva capito tutto, aveva capito che ormai erano migliaia le domande da fare a suo padre, a Stepan, a tutti quanti, e non sapeva assolutamente da quale cominciare. Erano quasi davanti alla porta. Elia prese la mano di Maurice e gli disse, chinandosi: Non dici niente, figliolo, va tutto bene? Mi fa male la gola, rispose Maurice senza guardare il padre. Aveva una tale voglia di piangere che era vero, ma fu coraggioso come lo era stato la mattina davanti a Robert. Entrarono in casa, mano nella mano. Elia trovò che quella di Maurice era molto calda e lo disse a Sonia arrivando al secondo piano. A 39 e mezzo, disse Sonia scuotendo il termometro e tirando su le lenzuola del lettone dove aveva infilato Maurice. Fammi vedere, mamma, disse Maurice tendendo la mano verso il termometro. No, è troppo fragile e costa caro, rispose Sonia. Ora ti faccio una spremuta di limone calda con lo zucchero e l'aspirina. Andò a chiedere un limone a Olga. Stepan era in cucina e parlava sottovoce. Zazà era nella stanza da pranzo. Gli sta bene. Hanno mangiato delle porcherie al terreno, fece Zazà quando seppe che Maurice aveva la febbre. Torneremo quando si sarà addormentato, disse Sonia a Stepan. Il guanciale odorava dei capelli di sua madre. Suo padre, seduto sull'orlo del lettone, gli teneva la mano. Maurice aveva chiuso gli occhi. La gola non gli faceva più male per niente, ma pensava che fosse troppo tardi per dirlo. Aveva solo un po' male dappertutto, come quando si è caduti, ma stava talmente bene nel lettone che era quasi piacevole. Sua madre e suo padre parlavano piano, poi uscirono di camera in punta di piedi. Maurice ebbe la deliziosa impressione di averli puniti. E per punirli ulteriormente decise di non pensare che ai propri segreti, a quelli che ormai condivideva con Robert. Se non fosse stato così indolenzito, avrebbe alzato le spalle di compassione per la madre che credeva di saperla più lunga di lui sul mercurio. Riandò con la mente a tutte le scoperte di quel mezzogiorno. Sorrise all'idea di andare l'indomani a spiare l'occhio di vetro del dottor Pierre e cacciò l'immagine dell'uomo con il gran cappotto e si assopì pensando al sapore di cocco che si sarebbe combinato bene con il limone. Quando tornarono da casa Roginski, Elia lo mise nel suo lettino. Si svegliò sfebbrato e se ne andò a scuola con Robert, come tutte le mattine. Proprio prima di entrare nel cortile, Robert si batté la fronte con la palma aperta. Ah, dimenticavo, era un mascalzone, sai, quello assassinato ieri. Pare che vi avrebbe ammazzati tutti, te, tua madre, tuo padre, Zazà, i suoi genitori, Sami, Gino, tutti insomma. Ce l'ha spiegato mio padre ieri sera, era tutto contento che fosse morto. E voi? Vi avrebbe ammazzati? Chiese Maurice. Beh, no, perché non siamo ebrei. Dai, spicciati, sta suonando. Disse Robert. Dietro i vetri della sua classe, il signor Florian osservava tutti quegli ometti che correvano per arrivare in orario. A tutti aveva insegnato chi erano i Galli, Giovanna d'Arco, Enrico IV e anche Ravaillac, ovviamente. Oggi forse alcuni di loro avrebbero chiesto di sapere chi fosse Schwarzbart. Era pronto, ma non sarebbe stato facile. Ravaillac era il cattivo perché Enrico IV era il buono, Schwarzbart era il buono perché Pietilora era il cattivo e la notte di San Bartolomeo si perdeva nella notte dei tempi, che era già il tempo dei pogrom. Ma i pogrom non erano nel programma della storia di Francia. Ed era quello che dal giorno prima turbava il cuore del signor Florian, che aveva la responsabilità delle loro anime oltre che del loro sapere. Uscì in cortile e li fece mettere in fila. Battendo le mani, continuava a chiedersi se toccasse a lui comunicare una storia che apparteneva solo a loro e di cui erano i piccoli sopravvissuti. Si rimproverava di non essere andato a chiederlo ai loro padri, che aveva visto da lontano mentre tenevano consiglio sui due marciapiedi di Rue de la Mare. Ancor più si rimproverò quando Gutmann chinò il capo togliendosi il berretto per passargli davanti. Non aveva proprio l'aria di essere in gran forma. Parte seconda. Maschere e bergamaschi. La signorina Madi Varga non si era rivelata timida come aveva annunciato Augustin Leblanc, né scioccherella come aveva supposto Nicole Roginski durante quell'ormai lontana sera del 1926, a proposito della quale entrambe fingevano di aver dimenticato che era quella del loro primo incontro. Si perde nella notte dei tempi, rispondevano volentieri ai curiosi che volevano sapere in che modo si fossero conosciute Victoria Jean e Madeleine Varga, le due inseparabili direttrici di maschere e bergamaschi, che occupava tutto il primo piano di un palazzo direttorio nel vialetto interno Chateaubriand, che partiva dal numero 11 della rue Chateaubriand nell'ottavo distretto. Si perdeva nella notte dei tempi, tranne che per Armelle Beau, alla quale capitava ancora di fremere, evocando con la sorella Gildèse la terribile sera in cui il signore aveva voluto rompere l'uovo del padre della signora, gridando come papà quando tornò ubriaco alla fattoria. Giacché era proprio così che erano cominciate le cose quella sera in Rue Charles Lafitte, mentre Armelle e la sua padrona davano l'ultimo tocco alla tavola che si apprestava ad accogliere l'usignuolo di Saint-Étienne e il suo mecenate di Troyes. Yannick, tornato prestissimo, ancora traboccante di dispiacere dopo la sfuriata di Stepan, si era annunciato sbattendo con violenza la porta d'ingresso. Aveva fatto irruzione nella stanza da pranzo e, blaterando parole che Armelle prendeva per russo, aveva afferrato il Fabergé che Nicole aveva riacciuffato per un pelo. Nicole aveva rimandato Armelle in cucina e, gridando più forte di lui, l'aveva pregato di spiegarsi. Nicola ammise che, oberata di incombenze domestiche, non aveva aperto le code Paris, che quel giorno era rimasto effettivamente a giacere sulla mensola dell'ingresso. Lo tolse dalla fascetta d'abbonamento ed ebbe l'impressione di riconoscere il nome dell'ex dittatore dell'Ucraina, quello che aveva sentito distrattamente la mattina stessa salendo le scale. Scorse l'articolo, alzò le spalle e liquidò la faccenda osservando che a provocare gli scandali sono più o meno sempre gli stessi. Poi, dopo aver consigliato a Yannick di fare un bagno e di cambiarsi, aveva premuto il piccolo rubino per controllare che il meccanismo Fabergé non avesse subito danni. Aveva constatato con piacere che i piccoli recipienti non si erano rotti, aveva accuratamente ripulito le varie qualità di senape sparse e raccolto il sale e il pepe nel cavo della mano. Poi si era sentita in dovere di rinnovare le sue riserve di spezie. Tolse tre rose dal gran mazzo che ornava il piano a coda del salotto, le dispose in mezzo al tavolo e ripose nel buffet l'uovo imperiale di Fabergé, decretando bruscamente che meno si fosse visto, meglio si sarebbe stati una sera in cui l'attualità rischiava di far scivolare pericolosamente la conversazione verso i cosacchi e i pogrom. Poi era andata a grattare alla porta del bagno e nel vapore profumato aveva baciato la fronte corrucciata e la bocca di Yannick. La consegna che gli aveva mormorato era di orientare la conversazione conviviale verso la guerra del Rif e il ribelle Abdelkrim, da cui il maresciallo Pétain aveva preteso la resa in nome del governo francese. Ebbe anche un vago rimpianto che si tenne per sé, quello di rinunciare all'apparizione del fratello di Joël, il quale cenava dalla sorella e che avrebbe figurato talmente bene in salotto con la sua uniforme di spy. Sarebbe poco conveniente, disse fra sé, ma il pensiero del giovanotto nella sua pomposa uniforme la mise improvvisamente di buon umore. Perché hai un'aria così allegra? Si informò Yannick infilandosi l'accappatoio di spugna. Ah, pensavo a papà, rispose lei sfregandosi la schiena. Non è sicuramente vero, disse Yannick. Eppure era quello il giorno, quello o mai più. Augustin Leblanc e la signorina Maddy Varga suonarono alle 20 in punto. Non era inzibellinata. Si liberò di un leggero soprabito tre quarti di surah blu con lo stesso bordo di piqué bianco del vestito. Nicole ebbe il tempo di leggere l'etichetta senza una vera sorpresa perché aveva riconosciuto il taglio, ma non si sa mai con i copiatori. No, se la ragazzina arrivava proprio da Saint-Étienne, non aveva perso tempo e doveva essere passata direttamente dalle Dames de France a Paul Poiret. Era bruna, con gli occhi marrone, pettinata alla spinelli, con la frangia e due ciocche abilmente tagliate in modo da tornare con due mezzi tirabaci sulle orecchie, e la piccola punta sfilata sulla nuca le dava di schiena la grazia di un'adolescente. «Grazie per averci invitati, me e il mio padrino», disse subito con una voce bene impostata sui toni gravi, che conferiva alla frase apparentemente banale un sapore di passione clandestina e di complicità. Nicola avrebbe potuto lasciare l'uovo, la tiara della zarina e perfino una stella di Davide e un candeliere a sette bracci sui diversi mobili dell'appartamento. Avrebbe potuto mettere sul fonografo il disco di Sidi Brahim e spiegare il gagliardetto della legione straniera sulla parete della stanza da pranzo. Niente avrebbe potuto distrarre la signorina Maddy Varga e neanche Augustin Leblanc, che l'ascoltava incantato e muto di beatitudine, dai due soli argomenti che monopolizzavano la sua attenzione: la sua passione per le arti liriche e drammatiche e l'attaccamento ostentatamente filiale per il suo brizzolato benefattore a cui dava del lei. Enumerando gli spettacoli che avevano visto insieme, faceva scoprire a Nicole e a Janek le cadenze culturali fino a quel momento ignorate, alle quali era stato sottoposto il vecchio provinciale, mentre loro avrebbero giurato che delle notti parigine lui conosceva soltanto le sale di Luca Carton e l'atrio dell'Hotel Terminus. Poi lei parlò di Saint-Étienne, del padre morto in guerra, il quale aveva cominciato a 11 anni nelle miniere, di sua madre, operaia in una piccola fabbrica di catene da biciclette, ma questo ora è finito da 6 mesi, della corale dell'oratorio, della miniera dove il parroco le faceva sempre cantare gli assolo, del posto che avrebbe potuto occupare nella fabbrica di catene da biciclette. Ma ho avuto un'occasione. E sono partita per Parigi, annunciò che si chiamava in realtà Madeleine Vargugnan, ma che per il palcoscenico faceva troppo pneumatici, Bergugnan. Poi chiese l'ora e decise che doveva andare. L'indomani aveva un'audizione al Teatro Capucine. Nell'ingresso baciò Nicole, strinse la mano di Yannick e, infilandosi il tre quarti di Paul Poiret, dichiarò: «Io che sono così sola a Parigi, quando non c'è il mio padrino. Ora so di aver trovato una famiglia», spinse Augustin Leblanc sul pianerottolo. «Su, padrino, andiamo. Mi accompagnerà a piedi fino alla porta di casa, la farà dimagrire», gli bisbigliò abbastanza forte da essere sentita. «Che energia!» disse Yannick quando Nicole ebbe richiuso. Nicole non rispose e tornò nel salotto dove Yannick la seguì. «Magari non ci va neanche a letto insieme», commentò Yannick, finendo il cognac che gli rimaneva nel bicchiere. Nicole andò a prendere nell'armadietto dei liquori la bottiglia di vodka che aveva evitato di servire per tutta la serata e se ne versò un bicchierino. «Fa di meglio. E se anche non gli si infila nel letto, sa benissimo dove andare e ci va a grandi passi. Ma a me è simpatica, la signorina Vargognan», concluse trangugiando d'un fiato il suo bicchierino di vodka polacca. «Cara famiglia, mi hai portato fortuna. Mi hanno scritturata al teatro Capucine. Il padrino e io vi diciamo grazie. Maddy». Il testo era accuratamente scritto in chiaroscuro sulla galetta di carta di pizzo che avvolgeva un bel mazzolino romantico. Il mazzolino era bene in vista sullo zerbino quando Armelle, rispondendo a un leggero squillo di campanello, aveva aperto la porta dietro la quale non aveva trovato nessuno. Era l'indomani della cena, verso le 3 del pomeriggio, quando Armelle bussò. Nicole era in salotto con Joël Le Gentil, che le parlava del cugino della madre, il quale era stato nominato procuratore generale a Lorient. «La nostra Armelle, la nostra Gildèse, lo sanno chi è? Si ricorda i nostri cugini Ariot, Armelle?» «Oh sì!» disse Armelle arrossendo. «La persona non c'era più, signora», annunciò porgendo il mazzolino a Nicole. Nicole decifrò il messaggio facendo girare lentamente la carta pizzo e la conversazione di Joël Legentil le parve di colpo insopportabilmente insipida. Per quanto ancora lo ignorasse, Joël aveva fatto il suo tempo ed era stata sostituita. La figlia di proletari di Saint-Étienne, ambiziosa e scaltra, simpatica, onesta e venale al tempo stesso, aveva detronizzato la scialba erede di nobilotti celti, la maestratrice di bretoni, la moglie dell'ingegnere e la sorella dello spahi. Con Madeleine Vargognin, l'avventura aveva fatto il suo ingresso a Neuilly, o meglio il suo ritorno. Dopo un intervallo di tirocinio borghese, Nicole si faceva volteggiare il piccolo fascio di gambi tra le dita, ma così rapidamente che Joël non riusciva a leggere neanche una parola di quel messaggio che sospettava fosse di uno spasimante. Dato che era troppo bene educata per fare domande, attendeva la confidenza, continuando a descrivere per filo e per segno la magistrale carriera del procuratore Henriot. Di fronte a lei, la paiva, che non l'ascoltava più, sorrideva come sapeva sorridere Samuel Zetkin quando diceva a Janek: «Mi hai salvato dai librai? Ora vedrai come ci divertiremo tutti e tre». Le strade dell'avventura, proposte alla ghiotta curiosità di Nicole, si delineavano semmai come i sentieri di un piccolo terreno sterposo. Il titolo di capo spedizione che le aveva conferito Maddy Varga, nominandola madre di famiglia morganatica, consiste soprattutto in un primo momento nel colmare i solchi, nell'individuare e segnalare le sabbie mobili, nel mettere tagliole, badare che nessuna cicca semiaccesa appiccasse il fuoco a quella piccola boscaglia di menzogne. Menzogne indispensabili al mantenimento dell'equilibrio delle associazioni Roginski-Ziegler, Ziegler-Leblanc, Leblanc-Varga, Varga-Roginski, da cui ormai dipendeva. Lei era la sola a saperlo, l'esistenza della ditta Femina Prestige. E l'immaginazione di Nicole, così a lungo posta al servizio di un passato fallace, ritrovava tutto il vigore che infonde la quotidiana invenzione di una menzogna dopo l'altra. Non solo doveva mentire a Lillian Ziegler, che trovava il padre ben stanco e aveva trovato la madre ben triste nella casa di Troyes, a Roger Ziegler, che non trovava mai il suocero al terminus, ma anche a Augustin Leblanc, quando non aveva trovato Maddy in Rue Pergolese. Sfortunatamente, alla stessa epoca, aveva dovuto mentire anche a Maddy, e quella era la sola menzogna che le fosse costata. Visibilmente smarrita sul palcoscenico del teatro Capucines, nella parte di una pastorella, Luigi XVI, che cantava il pleu bergère a una Maria Antonietta molto scollata e sicurissima di sé, Maddy Varga, attrice, era deludente. Nicole non le aveva trovato niente di quel misto di sfrontatezza, di innocenza e di perversità infantile che costituivano tutto il fascino di Madeleine Vargognin fuori di scena. Convocata e delegata da Augustin Leblanc, il quale non osava ancora farsi vedere tra le quinte dei teatri, Nicole, senza Janek, che dal canto suo non voleva ancora compromettersi così apertamente nei confronti degli Ziegler, Nicole era dunque andata da sola ad assistere all'ultima prova de L'Autrichienne e Les Serrurier, adattamento francese della commedia musicale americana di Clark e Simpson, che aveva trionfato a Broadway con il suo titolo originale The Mary Mary Antoinette. Augustin Leblanc e Nicole avevano convenuto che lei l'avrebbe chiamato a Troyes a notte il più possibile inoltrata, per non destare i sospetti della signorina Leblanc, che si addormentava verso le 10. La parola d'ordine presa dal vocabolario della maglieria era seta perlata in caso di trionfo, mistolino in caso di un mezzo successo. L'eventualità di un fiasco non era neanche stata presa in considerazione. Quando Nicole bussò alla porta che le aveva indicato il custode del teatro, fu un quartetto vocale a rispondere: «Avanti!» Maddy Varga divideva un camerino minuscolo con tre ragazzine, in cui Nicole stentò a riconoscere le altre dame di corte che in compenso le erano sembrate molto convincenti nelle loro scene. Liberatesi delle monumentali parrucche incipriate e dei fastosi vestiti a paniere, ancora vistosamente truccate, La testa, stretta nella calza di seta nera, che aveva servito da supporto alle decine di forcine destinate a consolidare le parrucche nei loro grembiuli di cotone, avevano l'aria di scolare che si cambiano alla fine di un ballo in costume in cui si sono travestite da Pierrette. Dissero «Buongiorno, signora», con un sorriso interrogativo e disarmato in fondo agli occhi bistrati. Maddy era la sola a portare un elegante kimono di seta cinese. Lei non sorrideva e nel suo sguardo già struccato Nicole poteva leggere il timor panico. «Brave!» disse Nicole a tutte e a nessuna. Un gigantesco cesto di fiori, sproporzionato all'esiguità del camerino e al ruolo insignificante della pastorella, ingombrava la parte della mensola da trucco davanti alla quale stava seduta Maddy. Quel monumento faceva sembrare ancora più toccanti i tre mazzolini che le dame di corte avevano messo in fresco nel bicchiere del dentifricio. «Davvero, brave!» ripeté Nicole. «Tante grazie, signora!» dissero le tre ragazze. «Grazie, Nicole!» mormorò Maddy, ritrovando il bel contralto che l'aveva così tragicamente abbandonata, né il pleu berger. «Nicole!» Ebbe il tempo di vedere, appesa a un attaccapanni, la cappa di Zibellino e disse: «Allora, signorine, vi lascio. Grazie per la bella serata e ancora brave!» E scappò via. Al telefono improvvisò un miscuglio di cotone perlato e di seta naturale che non voleva dire assolutamente niente, ma che rassicurò Augustin Leblanc. Questi doveva vegliare accanto al telefono, tanto fu rapido nel rispondere alla telefonista del centralino di Troyes, poco avvezza a trasmettere chiamate così tarde all'abbonato 122. L'Autrichien e le Serrurier venne rappresentato per 2 settimane. Ci furono altre audizioni, altre particine, altri cesti di fiori, altre delusioni e altri menzogneri rallegramenti che Nicole, con suo gran stupore, proferiva senza alcun piacere. Fino al felice giorno in cui la lucidità ebbe il sopravvento sull'amore smodato, oltre che sincero, che nutriva per l'arte drammatica, e Maddy Varga decise di abbandonare la carriera, liberando insieme Nicole dall'obbligo delle caritatevoli menzogne. Maddy aveva preso la decisione dopo aver letto le critiche di quella che sarebbe rimasta la sua ultima prestazione. Ebbe umorismo e coraggio sufficienti per rileggere ad alta voce a Nicole la più crudele. Quanto la signorina Maddy Varga ci aveva annunciato Giovanna d'Arco e Antigone, abbiamo avuto la Madelon, la rispediamo quindi al mittente. È una cattiveria, aveva detto Nicole. È una cattiveria, ma è maledettamente vera, aveva risposto Maddy. Farò qualcos'altro e il mio tintin pagherà, almeno servirà alle amiche e agli amici. E fu quel giorno dell'anno 1930 che era germinato tra Nicole e Maddy l'embrione di quella che sarebbe diventata la società Maschere e Bergamaschi. Già da un pezzo Augustin Leblanc era passato dallo stadio de Il mio padrino a quello de Il mio tintin, o semplicemente tintin, quando non era quel vecchio fesso di tintin nelle confidenze che Maddy faceva a Nicole. Confidenze di ogni genere che spesso avevano complicato la programmazione delle menzogne, giacché Maddy, quando le saltava il ticchio, poteva essere anche sentimentale e a volte durava per settimane. C'era stato qualche giovane artista di varietà, un suonatore di chitarra spagnolo, un capo macchinista di Bagnolet e 2 gite lampo in una clinica di Losanna e per ultimo, proprio durante lo spettacolo Canto e morte del cigno di Saint-Étienne, c'era stato uno scenografo costumista. Erano tutti giovani, belli, simpatici, disinteressati e innamorati, innamorati e avvisati, avvisati che c'era Tintin, che lei voleva molto bene a Tintin, che non bisognava mai dare un dispiacere a Tintin, che lei non avrebbe mai lasciato Tintin. Allora loro la lasciavano, lei era infelice e poi passava, passava, più o meno presto. Con lo scenografo costumista durava. Dal canto suo, a forza di frequentare i camerini, poi le quinte e anche i caffè vicino ai teatri, dove Maddy, anche se non l'avevano mai riscritturata, conservava comunque calorose amicizie, Nicole si era familiarizzata con quel mondo dove si sapeva recitare, cantare, ballare, ridere e piangere e mentire come i bambini. E finalmente aveva trovato una giustificazione a ciò che a suo tempo l'aveva misteriosamente indotta a scegliere Sua Maestà Lucien Guitry piuttosto che Sua Eccellenza l'ambasciatore di Francia presso lo zar per portare Piotr Zietkin a Parigi. Pur divertendosi alla scoperta del mondo dei bambini, non aveva peraltro perso tempo perché aveva anche scoperto quello degli adulti, da cui dipendeva la sorte dei bambini. Anch'essi avevano i loro camerini dietro le quinte dei teatri e spesso si trovavano allo stesso piano di quelli dei bambini, ma mentre i bambini si limitavano a esservi di passaggio, a seconda dei successi o dei fiaschi, loro li conservavano. I loro camerini, infatti, non li chiamavano camerini, li chiamavano uffici e loro non erano neanche dei bambini. E siccome neanche Nicole era una bambina, non ci mise molto a imparare i meccanismi per cui si faceva o non si faceva uno spettacolo, e a volte addirittura si interrompeva durante le prove, nel qual caso era sempre la stessa frase desolata che risuonava alle orecchie delle vittime. Si smette, ragazzi, il mio accomandante ci ha piantati, i miei fornitori non ci stanno più. Il titolo di accomandante, dietro cui si nascondevano invisibili creature di cui si sapeva raramente da quali fonti lontane e prosciugabili attingessero i fondi che promettevano, finanziavano o non finanziavano più, non avevano mai tentato Nicole. In compenso, quello di fornitore, inteso nel senso nobile di fornitore del re, fornitore esclusivo della Real Casa, si aureolava di un romanticismo artigianale che le piaceva molto. Fu dunque passando dalla porta dei fornitori che Nicole fece la sua prima comparsa ufficiale in seno alla grande famiglia dello spettacolo, poco prima che Madi Varga si fosse opportunamente decisa a dirle addio. Il giovane amante scenografo costumista era stato di grande aiuto. L'azione dei dépossédés, ovvero i diseredati, era questo il titolo del dramma in cui Madi Varga si sarebbe esibita per l'ultima volta, si svolgeva in un lussuoso castello renano. Alex Grandi, il nuovo amante, spinto dalla sua nascente passione, aveva disegnato per Madi un abito da sera la cui realizzazione richiedeva un tale metraggio di tulle con lustrini e di seta ricamata a mano che la direzione del teatro si era tirata indietro davanti al costo. A quel punto era intervenuta Nicole. Si incaricava lei delle forniture, delle fatture e delle rifiniture gratuitamente. Aveva fatto comunicare la notizia a Maddy, che la fece comunicare ad Alex Grandi, il quale la trasmise alla direzione, che ne fu felicissima. Si rallegrò con il giovane artista ad avere delle relazioni così prestigiose e chiese di incontrare quella incomparabile collaboratrice volontaria. E per la prima volta in vita sua, Nicole si ritrovò seduta di fronte al direttore di un teatro che le offrì il porto su un angolo di scrivania ingombra di fatture di bordereau come quella di Janek. Solo i manifesti sbiaditi attaccati alle pareti le ricordavano che non era in Rue d'Aboukir. Sì, effettivamente lei regalava il costume e molto volentieri le piaceva moltissimo la commedia. Per un noleggio irrisorio, quanto bastava per coprire le spese di assicurazione, offriva anche un bellissimo accessorio che avrebbe completato l'opulenza e la disinvoltura del personaggio della signorina Madi Varga, che nel secondo atto doveva muoversi sotto le volte umide della grande sala del Castello Renano. Un'autentica cappa di zibellino che la protagonista si sarebbe potuta togliere dopo la seconda battuta per meglio svelare agli spettatori la sontuosità del vestito da sera. In cambio, non aveva che da rivolgere una preghiera molto, molto modesta. Tirò fuori dalla borsa un foglietto su cui aveva preparato un testo che si ispirava direttamente all'operazione carta assorbente uomo sandwich, così vantaggiosa per la società Roginski-Ziegler, lo lesse al direttore. L'abito e la cappa di zibellino indossati nel secondo atto dalla signorina Madi Varga sono creazioni esclusive di Femina Prestige. Il direttore accettò, soddisfatissimo di cavarsela così a buon mercato. Nicole Roginski e Femina Prestige erano in procinto di cambiare ragione sociale. E anche la cappa di zibellino. Il modesto ruolo che sosteneva tutte le sere nel secondo atto dei Depossedè l'aveva fatta uscire dall'oblio e dalla custodia con naftalina dove la sua proprietaria l'aveva conservata da anni. Nicole e Maddie si divisero equamente il suo salario d'accessorio che figurava sui bordereau del teatro sotto la voce Noleggio Femina Prestige, mentre l'abito con i lustrini era riportato nella colonna Contropartita Pubblicità.